Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Frey, ben ritrovati su Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio in questo suo primo appuntamento dell'anno. Spero che abbiate passato delle buone vacanze, spero che abbiate approfittato della nostra lista di consigli di lettura e che, se l'avete persa, potete sempre ritrovare sul nostro sito www.radiovalloon.info. E entriamo nella puntata di oggi, una prima puntata dell'anno densa, ricca di contenuti, e una prima puntata dell'anno in cui ancora una volta, di questo magari me ne scuso per i più appassionati della storiografia classica, racconta la storia tramite i linguaggi della letteratura. E nelle ultime puntate ci siamo un po' dedicati a questo, in effetti. Parliamo di letteratura perché presentiamo una rivista. La rivista in questione è Zona Letteraria, studi e prove di letteratura sociale, che esce in questo suo primo numero con una parola chiave molto importante: la colpa di essere poveri, ovvero sia racconti, testimonianze, analisi, letteratura a proposito della guerra ai poveri che è in corso nel nostro paese e che è in corso un po' in tutta Europa, diciamo. E Zona Letteraria è una rivista molto particolare, nel senso che è il primo numero di questa rivista, ma non è il primo vero numero, diciamo, nel senso che alle spalle ha il percorso di Letteraria, Nuova Rivista Letteraria. Per chi è di Bologna, naturalmente sono nomi abbastanza familiari, perché si tratta di quelle riviste, di quella grande rivista che è stata Nuova Rivista Letteraria, curata da Stefano Tassinari, di che ne è stato un po' la mente e colui che l'ha portata avanti fino alla morte. Stefano Tassinari è uno scrittore di Bologna di cui vi avevamo parlato un annetto fa. Sul nostro sito naturalmente trovate il podcast della puntata in cui ne avevamo parlato. Quindi Zona Letteraria ha cambiato editore, è passato dall'editore Alegre a Prospero Editore, e ha scommesso sul portare avanti questo progetto, cioè non arrestarlo, perché ancora aveva qualcosa da dire, evidentemente. E guardando questo primo numero, naturalmente qualcosa da dire c'è di sicuro. È anche molto molto forte. Per parlarne avremo fra poco ai nostri microfoni Giuseppe Ciarallo, il coordinatore di redazione di Zona Letteraria, che ci racconterà un po' il lavoro che sta facendo la rivista. Prima di entrare, un po' di musica naturalmente, e si parla di povertà, si parla di guerra contro i poveri, si parla anche di rabbia naturalmente, di riscatto e volontà di riscatto sociale. La musicista giusta per questa puntata non poteva che essere Kenny Arcana, una rapper di Marsiglia che di povertà ha parlato molto, perché parla della sua storia a cavallo fra l'Argentina e la Francia. E noi iniziamo con un pezzo che parla proprio della guerra ai poveri, che venne lanciata da Sarkozy, l'ex presidente della Repubblica, e quando ce le disse una famosa frase in una sua visita in un quartiere periferico: qua ci vorrebbe una pulizia col car share, con l'idrante. E quindi ci ascoltiamo Nettoyage car share e poi diamo la parola a Giuseppe Ciarallo. La France change, on s'est dit avec mes compères que pour nettoyer au carcère, on était volontaires, tous ces magouilleurs déguisés. Ok, pour nettoyer la racaille, nous partons donc carcériser l'Elysée. Ces hommes d'affaires en forme de politiciens libéralisant le pays en dépit des vœux de la populace. Baillons dans la démocratie pour faire passer leurs lois, leurs décrets, même quand le peuple a dit assez. Gouvernement honteux, que rien n'amène à la démission. Le plus ridicule de toute l'histoire de la nation, article 49-3, répression. Couvre-feu, dépassé, ta 5ème république a pris un coup de vieux. Le bol s'élève, gouvernement illégitime depuis le nom à la constitution européenne. Partout ça se mobilise, anti-libéral, les prisons se remplissent, la démocratie n'est pas libérale. Nettoyage au carcher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cache les plus grands des racailles. Nettoyage au carcher, gouvernement honteux, honteux, honteux, est-ce que rien n'amène à la démission. Nettoyage au carcher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cache les plus grands des racailles. Nettoyage au carcher, gouvernement illégitime depuis le nom à la constitution européenne. Valeurs hypocrites qui écœurent, stigmatisent nos quartiers pour que les autres aient peur. Des politiques qui jouent les acteurs n'assument pas le passé colonial, et quand les banlieues pètent accusent les rappeurs. Mauvaise foi exemplaire ou mémoire sélective au doux. Ce France de mon enfance, c'est joue l'amnésie. Que fait la belle quand elle parle d'immigration? Ce n'est pas ton peuple ou collabo qui s'est battu contre l'occupation. Au de ton podium, toi qui fais si fier de tes soi-disant droits de l'homme et de ton siècle des lumières, ta philosophie humaniste s'est arrêtée à la théorie quand tes armées sont parties coloniser l'Afrique. La liberté d'expression, comme tout à deux vitesses, islamophobie à tout va, mais ne critique pas Israël. C'est la politique schizophrène de la France, fracture sociale maintenue et parle d'égalité des chances. Sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cacher plus grand des ragas. Voyage au Karcher, n'est pas comptable pour la peau qui s'est battu contre l'occupation. Voyage au Karcher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cacher plus grand des ragas. Voyage au Karcher, islamophobie à tout va, mais critique pas Israël. Idéologie mensongère, nous la font à la transversale. Sortez les dossiers noirs, France-Afrique demande à Berchave. La France a oublié pour les quelques-uns qui vivent bien que certains sont morts pour le droit des travailleurs. Rappelle-le à Villepin, contre la première embauche, c'est exécute ou dégage. Régression sociale à tous les étages, bientôt le point de non-retour. Au royaume des aveugles, les pornes sont rois comme un facho. Au premier tour, Super Soro est arrivé, un Sarkozy totalitaire. N'oubliez pas que c'est par les hommes qu'est arrivé Hitler. Un ministre pro-Bush, l'OMC à son élève. Guillaume Sarkozy, vice-président du MEDEF. Pendant que les privatisations sèment la colère, nos politiques s'en réjouissent en sont devenus actionnaires. Snob, les protestations puis les criminalisent. Envoyez même le GIGN pour stopper des grévistes. Les voyages au Karcher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cacher plus grand des ragas. Les voyages au Karcher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cacher plus grand des ragas. Voyage au Karcher, au royaume des aveugles, les pornes sont rois comme un facho. Premier nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cacher plus grand des ragas. Voyage au Karcher, sortez les dossiers noirs, comme Afrique demande à faire. Voyage au Karcher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cacher plus grand des ragas. Voyage au Karcher. Allora, diamo il benvenuto a Giuseppe Cerallo. Buongiorno, ben trovato qua sulle frequenze di Vallun. Un saluto a tutti. Bene, allora, entriamo nella presentazione di questo numero uno di Zona Letteraria, una nuova rivista che però ha alle spalle un percorso un po' più lungo, come abbiamo detto. Quello che mi interessava chiederti per iniziare questa chiacchierata è un po' di raccontarci il lavoro redazionale che avete fatto nella definizione del numero. Come dicevo nell'introduzione, è interessante la scelta che fate di parlare di poveri, di povertà, la colpa di essere poveri, soprattutto in un momento in cui nel dibattito pubblico di povertà si parla poco, quanto invece si tendono a presentare altre categorie per dividere la società. Che riflessioni avete fatto voi? Ma innanzitutto ogni numero nasce nel corso di una riunione del collettivo redazionale che teniamo a Bologna, peraltro presso la libreria Trame che ci ospita ogni volta, e il dibattito è sempre molto forte perché ogni redattore mette sul tavolo determinate tematiche. Durante la riunione del peraltro novembre 2017 è stato pensato il numero, uscito poi nel novembre 2018, quindi con un buon anno di anticipo, ci siamo ritrovati tutti d'accordo nel voler affrontare una tematica che poi in questi giorni è esplosa clamorosamente, no? Con i fatti di Trieste, di Monfalcone, senza pensare ovviamente a tutta la questione dell'immigrazione che è sempre più scottante. Per cui la discussione a un certo punto si è incanalata proprio in questa tematica che sentivamo proprio cogente, cioè il fatto che ad un tratto da qualche anno i governi di tutto il mondo, non solo occidentali, si sono ritrovati a combattere, a dichiarare una guerra non alla povertà ma contro i poveri. È paradossale questo perché ovviamente peraltro la cosa che mi lascia un po' sconvolto ogni volta è che ci sono molte persone che non riescono a comprendere la differenza tra queste due cose, e cioè combattere la povertà, e cioè andare a ricercare alla fonte i motivi che poi, ed eliminarli ovviamente, che portano poi alla disperazione di un numero sempre crescente di persone, e ovviamente fare la lotta al povero. Quindi abbiamo deciso di affrontare questa tematica proprio perché la sentivamo di un'urgenza straordinaria, cosa che poi si è dimostrata ancora di più negli ultimi mesi, forse in concomitanza con la formazione del nuovo governo. Senti, allora, la rivista, come è vostra tradizione, diciamo, cioè abbraccia punti di vista differenti con un focus molto importante nella letteratura, ma attraversando tante dimensioni. La cosa che lo fa, che secondo me lo rende molto bello, un prodotto proprio interessante, è anche il fatto di attraversare epoche differenti. Ecco, io ti volevo chiedere, come è cambiata secondo te e secondo voi, cioè alla luce di questo numero, di questo nuovo numero che avete prodotto, la rappresentazione della povertà? Come è cambiata l'idea dei poveri? Hai parlato di una guerra ai poveri adesso? È sempre stato così? Io credo che nelle società capitalistiche sia insita questa guerra. Dichiarata o meno, comunque la contenga in seno e sia imprescindibile appunto dal sistema economico capitalistico. Vediamo, cioè nel secolo scorso ci sono state delle lotte a livello mondiale, ma anche in Italia, per la conquista di diritti che oggi si stanno rimangiando, ma che però sembravano addirittura quasi banali, no? Cioè il diritto alla malattia, il diritto ad avere un lavoro decoroso e pagato giustamente, cioè tutte cose che mancavano, per cui la povertà probabilmente esiste da che esiste l'uomo e si è acutizzata dopo la rivoluzione industriale. Ma com'è cambiata? Io il cambiamento più grosso che ho notato, e parlo a livello personale, perché poi quando parleremo della rivista parleremo di come altri hanno affrontato la cosa, ma io vedo che c'è stato un mutamento pericoloso nella percezione da parte di altri poveri o persone che comunque sono diciamo borderline rispetto alla povertà. Cioè di solito chi è nella stessa condizione si coalizza e cerca di cambiarla, di migliorarla. Oggi come oggi invece sembra che ognuno abbia paura della povertà e per questo smette di essere solidale con gli altri e cerca individualmente di non annegare e di restare a galla. Questo è stato il cambiamento peggiore, a mio avviso, a livello sociale. Ok, allora ci fermiamo un secondo, ci ascoltiamo un pezzo. Stiamo sempre ascoltando in musica questo canto invece di rabbia per la povertà, per queste condizioni materiali. Ci ascoltiamo un altro pezzo di Kenny Arcana e torniamo a chiacchierare con Giuseppe Cerallo a proposito di Zona Letteraria. C'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec la comme on se mêle sur les pavés. La rage de voir nos putains de ravés, de vivre en travers. La rage gravée depuis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite quand des adultes te volent ton enfant. Pas imagine un mur et aboli la rage. Car impossible et cette paix t'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'auto-détruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les pécans des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage, on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur est à. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage, rien ne pourra plus nous

alla fine è una questione di conflitto sociale continuo, non se ne esce e soprattutto in questi ultimi tempi, ripeto quello che ho detto prima, a complicare le cose è venuta a mancare la solidarietà tra le persone, cosa che per esempio trovavamo nella letteratura industriale degli anni 70, da Fortini, Ottieri e altri, dove praticamente esisteva una classe capace di far fronte, di ribellarsi. Oggi la letteratura, ma non solo, possiamo parlare anche del cinema, per esempio di Ken Loach, che, soprattutto io, Daniel Blake, che viene trattato nel pezzo di Carmine Mezza Cappa. Oggi vediamo proprio la polverizzazione, l'individualismo portato all'esasperazione, la mancanza di sentirsi parte di una classe forte, combattiva, eccetera, e tutto questo non può che essere rilevato dall'arte, dalla letteratura, dal cinema, dal teatro e dalle altre forme d'arte, che ovviamente non fanno altro che interpretare quella che è la situazione sociale. Ecco, allora guarda, visto che il tempo a nostra disposizione si sta drammaticamente riducendo, ti lascio con una domanda, anche se è un po' una domandona. E quindi, proprio sulla scorta di quello che tu dicevi, cioè è l'arte che è la letteratura, la cultura che prende questa palla. Quindi qual è l'impegno militante a questo punto di Zona Letteraria, da questo punto di vista? Ma sicuramente è quello di denunciare e di gettare in ogni numero, per la tematica scelta, il classico sassolino nello stagno che produrrà, speriamo, tanti cerchi e metterà delle pulci nell'orecchio ai lettori. Purtroppo chiaramente sappiamo che in Italia la cosa è particolarmente ardua, visto che di lettori forti non ce ne sono tantissimi, però io credo che una buona semina alla lunga non può far altro che dare dei frutti, e quindi Zona Letteraria è un seme testardo, caparbio, che spera di generare dei frutti di consapevolezza sempre più allargati. Ecco. Moi c'est Victoria, née il y a 14 printemps dans un village près de Salta dans lequel je vivais avant. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs. On est venu s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui l'a construite mais elle est pas finie. Je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en parle car elle n'aime pas la vie ici. Des étrangers ont brûlé nos maisons pour nous voler nos terres. Papa s'énerve, moi je comprends pas, il parle d'agroalimentaire. Il dit que les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur. Ici pas de travail, aucune prière ne s'exauce. Après les cours avec ma sœur, on vend des bracelets de pesos. Mais malgré tous ces efforts, demeure ces jours sans repas. La nuit maman pleure, la nuit maman ne dort pas. Nosotros, hija mía, son, no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a su desaparecido. Voisin m'a dit pendant la dictature c'était plus dur, alors je vais pas me plaindre, même si ici y a pas de futur. Moi j'aime bien les études, on m'a dit c'est bien mais inutile. Ici beaucoup ont arrêté avant même de savoir écrire. Dans mon jardin secret je cultive le rêve d'être médecin, soigner tous ces enfants malades qui ne mangent pas à leur faim. Je comprends pas, dans la ville je vois bien tous ces petits faire la manche devant le mépris de ceux qu'on appelle les gens bien. Je m'interroge, ne voient-ils pas la misère? Ils nous écrasent pour bénir l'homme venant de l'autre hémisphère. Papa dit qu'on est traités comme des chiens. Dieu merci, j'ai ma famille. Plus loin y a des orphelins qui vivent dans les décharges. Des fois je pleure en cachette, mais pas longtemps, car je pense à mes aînés qui ont connu le chant des mitraillettes. Et puis grand-mère disait toujours, la vie c'est l'espoir. Si t'y en as plus, t'es comme mort, et vivre lève de l'exploit. Nosotros, hija mía, son, no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a su desaparecido. Papá, fou, il a frôlé la folie quand un matin il a appris que la banque lui avait volé ses économies. Impuissant, tout le monde était affolé, il n'était pas le seul, c'est la nation entière qui s'était fait voler. Depuis ce jour, avec beaucoup de gens de la ville, ils bloquent les routes pour bloquer l'économie du pays. C'est leur façon de se faire entendre, mais moi j'ai peur quand ils s'en vont, y'en a qui reviennent pas. La police est violente, ils les appellent piqueteros et les journaux sont des menteurs. Ils disent que c'est des bandits, après y'a des gens qui ont peur. Papa dit, ils peuvent tuer des hommes mais ils ne tueront pas la mémoire. Les mères des disparus chantent toujours contre l'oubli. On vit le fruit d'une démocratie ratée dans un pays si riche, sans d'enfants n'ont dans le ventre qu'une tasse de maté. Parce qu'on est dirigé par la mafia du crime. Moi je comprends pas et quand je demande pourquoi, on me répond toujours qu'on est en Argentine. La pobreza no es deshonra, si se vive con dignidad. Piqueteros, cartoneros, en la lucha de los pueblos, en memoria de Marco Guevara Zapata, juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Bene, dopo esserci ascoltati un altro pezzo di Kenny Arcana, ci avviamo verso la conclusione, ringraziando ancora Giuseppe Ciarallo, direttore di Zona Letteraria, la rivista di cui vi abbiamo parlato, che potete trovare in libreria. E per chiudere alcune cose, innanzitutto prima vi ho citato il libro di Renzo Paris, che i cui riferimenti troverete sulla pagina che accompagna il podcast, insieme a altri spunti per arricchire la lettura e per approfondire la questione, cioè come la letteratura, come la storia hanno raccontato la povertà. E ci lasciamo con un paio di appuntamenti particolarmente graditi. Allora, il 17 gennaio alle 18 presso la Mediateca Gateway di via San Petronio Vecchio, 33 a Bologna, torna a Bologna Elia Rosati, uno storico di Milano che si è occupato di fascismo e neofascismo, che abbiamo ospitato anche noi l'anno scorso per presentare il suo libro su Ordine Nuovo, che presenta Casa Pound Italia, fascisti del terzo millennio. Anche questo libro edito con Mimesis. Naturalmente si parla di storia, si parla di fascismo, purtroppo ce n'è molto da parlare, però è un bellissimo appuntamento lunedì 14 gennaio alle ore 17.45 presso la piazza coperta del centro civico del quartiere Savana di via Faenza numero 4, dove è allestita una mostra documentario sulle leggi razziali del 1938. Ci sarà un incontro dal titolo Abusi di memoria, razzismo tra passato e presente. Sarà presente la professoressa Valentina Pisanti, docente di semiologia presso l'Università di Bergamo, e sarà presente per la redazione di Vallon anche la nostra Olga Massari, che ha curato insieme al nostro amico e compagno Dawit la mostra, che viene allestita a cura dell'associazione Centro Furio Iesi. Bene, appuntamento quindi lunedì 14 gennaio alle ore 17.45 in quartiere Savena di via Faenza numero 7, appuntamento giovedì 17 gennaio alla Mediateca Gateway di San Petronio Vecchio. Per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata da Frey. Ciao!